è Pokémon Go. Hai visto il gettito di gioia? Esatto. No, in realtà stasera siamo qui per fare un programma serissimo, però la musica di sottofondo oggi è quella di Pokémon Go. E del resto Pokémon Go è una cosa estremamente seria sul piano sociale, pubblico, forse anche politico direi, sì, perché esatto. Non sai mai dove ti possano portare queste commistioni tra realtà e fantasia. E quindi, con questo bellissimo sottofondo che mi inebria, mi sa che abbiamo i volumi troppo alti, parlo più piano. Tu prova a parlare? Io parlo benissimo. Tu sei bene, sono io che sono troppo... No, in realtà io ti sento forte e chiara. Perché in realtà questa puntata qua è ricchissima. È ricchissima. È densissima. No, più stiamo spianando la pulitura del mixer e un sacco di altre... Senti, le sedie nuove che cigolano. È tutto un po' così. Comunque, benvenuti a Coxo Spaziale. Diciamo che è il nuovo anno di Coxo Spaziale, giusto? Sì, è la quarta stagione di Coxo Spaziale, è la quarta, giusto? È la quarta stagione, sono quattro anni che facciamo queste cose. Coxo fa 150 e li fa sempre per la sua amata Radio Città Fujiko 103.1, anche quando ha cambiato sede. Esattamente, soprattutto. E anche quando la cambierà. Sempre, ovunque. Ottimo. Ma non riusciranno mai a togliersi il coxo dalla Ho una domanda per te. Che facciamo? La apriamo la finestra e sentiamo gli aerei che passano oppure no? Ma sveli così questo arcano, questo... Certo. Ma non lo so. No, è che io sto morendo di caldo. No, io direi che le nostre chiacchierine autoreferenziali che sono... Passiamo al tema. Le abbiamo fatte. Al tema. Adesso della io mi predispongo con un unico mouse. Grande. Verso la nostra playlist della 150esima puntata del Coxo. Esatto. Che sarà carica di ospiti ed è di sorprese di ricchi premi e cotillon. Ed è dedicata ad un evento speciale che avrà luogo domani e dopodomani. Ah, per cui due eventi. È un evento che si replica. Che si propone due volte. Perché l'evento è unico, sì, e incontra il pubblico in due occasioni. Esatto. E l'evento è? L'evento è la presentazione del libro su Elia. Elia artista. Elia artista. E per introdurci... Una canzone di un LP che Elia mi ha duplicato con le sue manine e mi ha portato a casa. Chocolate Genius si chiama, è un gran bel album del... 2003-2002 credo, anni di quel tipo e che Elia amava molto perché lo sentiva spessissimo. Ma sai che questa cosa della musica di sottofondo, adesso tiro giù il volume tuo e va via anche lei. È abbastanza comoda. Ma no? È una figata. Chocolate Genius. Nightfall attack of treacherous blood. Oh, quick fits of will. The one that you say could be the one set to kill. Don't go astray. Don't even try. Però niente male, quando è che te la passava sta musica? Tipo nel 2000, quando è uscito, tipo nel 2003-2004, adesso non me lo ricordo di preciso. Ma perché era un fervido ascoltatore di nuove proposte? No, Elia era un fervido ascoltatore di un sacco di tipi di musica diversi, anzi alcune a me obiettivamente facevano abbastanza cagare, fra l'altro appunto facevano coxare. Sì, certo. No, però voglio dire, forse per i nostri ascoltatori dovremmo dire chi è Elia, chi era Elia, perché Elia purtroppo è scomparso nel 2005. Fra l'altro, per aiutarci in questo rebus in questo meandro di abbiamo di anche la prima ospite telefonica della quarta stagione del Coxo, nonché prima super mega galattica ospite telefonica della 150esima puntata del Coxo. Esatto. E vogliamo dire chi è? Certo, e salutarla? Lo dici tu? No, dillo tu. Monica Carrozzoni. Ciao Monica. Ci sei? Ciao ragazzi, ciao Steph. Come ciao. Stai? Tutto bene? Abbastanza, tu? Sì, abbastanza. Però non volevo darti il compito, dare a te il compito di raccontare chi era Elia, insomma. Per cui magari lo racconto io. Elia era un pittore, soprattutto, era un artista di Adria, in provincia di Rovigo, che ha fatto l'Accademia di Belle Arti a Bologna con me e con te, e con te Monica, e poi dopo è rimasto a Bologna diventando parte integrante del tessuto urbano, per cui chiunque ha vissuto a Bologna dagli anni 90 al 2005, appunto, Elia lo conosce di sicuro. Detto anche il biondo, era appunto molto biondo con molti occhi azzurri, particolarmente visibile, diciamo, perché se andavi bello. Andavi in giro in Via del Pratello non potevi non accorgerti di lui, e lo trovavi sempre in Via del Pratello. Infatti io anche nel libro mi chiedo quando trovasse il tempo di fare quei meravigliosi quadri, proprio per il fatto che in qualunque momento io andassi in centro o lo incontravo appunto in Via del Pratello o lo incontravo a Sesto Senso, di cui parleremo più avanti. Monica, raccontami com'era Elia per te. Allora, Elia era bellissimo, bello fuori e bello dentro, perché comunque era una persona pura, estremamente generosa, anche se era estremamente introverso. Elia aveva una soglia, una specie di soglia che non varcava né con gli amici né con gli stessi né con l'arte, come se la purezza per lui fosse una parte integrante della sua anima. Ed è lì che ha avuto dei problemi, perché non gli unici problemi che ha avuto Elia sono stati di linguaggio e di mercato. Di mercato soprattutto, certo. Sì, perché di linguaggio io in realtà non sono tanto convinto, nel senso che sicuramente lui effettivamente è di Adria, nel senso che io una volta che è morto Elia ho conosciuto un sacco di persone di Adria che effettivamente sono molto riservate, cioè c'è proprio, io penso che sia la normalità ad Adria essere così riservati. Ed no, effettivamente, ma infatti mi sono spiegata male, cioè non era il linguaggio comune, il linguaggio all'interno del sistema dell'arte, è il linguaggio che il sistema dell'arte necessita per entrare. È una persona troppo sensibile per accettare le regole, a volte sconosciute, a volte troppo non so neanche come dire, elitarie di un sistema che o conosce o non conosce. Esattamente, no, questo effettivamente qua, il linguaggio che era quello, non è il linguaggio. Il parlare di lui come artista troppo puro per arrivare al mercato dell'arte, effettivamente sono d'accordissimo con te su questo, questo non c'è dubbio, perché è indubbio. Beh, c'è anche da fare un altro preambolo, che quando Elia ha fatto l'accademia lui era veramente una superstar. Era indubbiamente era dotato, sì. Esatto, era molto talentuoso, aveva un talento straordinario, e tutti in accademia se ne erano accorti, per cui comunque sembrava che la carriera sua fosse già, diciamo, fatta, mentre invece naturalmente, essendo anche l'Italia un paese particolarmente spietato rispetto a quello che è il mercato dell'arte, si è ritrovato uscito dall'accademia ad avere di fronte il nulla. Infatti io sono tuttora allucinato dal fatto di aver organizzato la sua prima mostra personale in Italia, io che sono stato appunto tutti gli anni 90 a New York, e quando sono tornato mi sembrava normalissimo naturalmente fare una mostra di Elia, mentre invece ho scoperto anni dopo di essere stato il primo a farlo, e come tuttora non mi sento, mi sembra un po' strano essere, diciamo, il portabandiera di quello che lì è stato anche a livello artistico. Invece purtroppo secondo me è successo, perché tu sei una persona estremamente generosa e visionaria, cioè riesci a vedere le cose, mentre la maggior parte dei galleristi sono i banchieri. Sì, infatti linguaggio c'entra soprattutto con mercato. Sì, linguaggio di quel mercato lì. Ma dimmi una cosa, Monica, se non ho capito male, voi eravate compagni d'accademia. Sì. Ci vuoi raccontare un aneddoto? Un aneddoto? Un qualcosa che, insomma, forse, cioè, che ti ha fatto dire... No, perché poi c'è anche da dire che effettivamente attorno a Elia ci si divertiva un casino. Ah, ma vedi, si beveva, si fumava e si faceva delle gran cazzate. A questo punto io lo devo ammettere, io non ho mai fatto arti visive, ho fatto altri percorsi, però Elia lo conoscevo e l'ho conosciuto anche in zona Non Pratello, penso un po' te. Dove l'hai conosciuto? In giro per feste di amici. Perché poi c'è anche da dire che Elia conosceva veramente il mondo, trasversalmente frequentava la Bologna bene, la Bologna così così, la Bologna mediocre, la Bologna allucinante, la Bologna spietata, cioè di tutto. Era un surfista di Bologna, cosa che a Bologna non succede con nessuno, cioè nessuno frequenta vari sacchi, cioè magari tu no, però comunque non è proprio... Vabbè, ma a Monica glielo vogliamo chiedere un aneddoto? Certo, chiediamo a Monica un aneddoto. Monica. No, parlavamo spesso di sogni e lui spesso mi viene a trovare adesso nel sogno. Ah, che bello! E cosa ti racconta? Dipende, l'ultima volta era contentissimo, l'ultima volta era super serio, parliamo d'arte ovviamente. Grande. Cioè ovviamente no, però l'ultima volta abbiamo parlato d'arte e mi diceva che il lavoro ha bisogno di uscire. Però era estremamente sereno, era nei primi anni d'accademia, aveva ancora capelli lunghissimi, biondi, e quando faceva il frigo. Ecco, un aneddoto carino anche, io me lo ricordo, il primo giorno d'accademia che sono entrato, mi ricordo che lì è entrato con una porta di frigorifero, tutta legata da un... era un filo di lana rosso e c'era messo dentro una pinna, una bottiglia, c'era questo oggetto che si portava sotto braccio, oggetto, una porta di frigorifero, non era neanche piccolo, però tutta legata, piena di altri piccoli oggetti, e devo dire che ha catturato decisamente la mia attenzione. Infatti ho detto, interessante questo. Ma era tipo la pochette? Esatto, sì, stava sotto braccio tipo pochette. L'astuccio di scuola per andare a fare il disegno all'Accademia. L'astuccio del primo giorno di scuola. Grandioso. Detto questo, ti interrompo perché voglio fare una cosa che è un po' strana, ovvero chiamare anche Elia, naturalmente una registrazione sua, perché c'è stato un periodo dove si innescava all'interno di una trasmissione radiofonica e poi dopo appunto io ho avuto la possibilità, grazie a Michele Restuccia, di avere qualcuna delle sue registrazioni dove appunto raccontava qual era la musica che gli piaceva, per cui in questo caso credo che sia il pezzo sia dei Cake. Per aiutare Fedra, che la vedo abbastanza, è il secondo, quello dei Cake, vai, cliccalo che vediamo cosa succede. Cake, come a pressure chief, palm of your hand. Così. Ciao Monica, grazie. Ciao. Standing, you'd never have believed it. When the house was standing, you'd never have believed. The bricks and mortar have all given way. At first they resisted, but then Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Non male, eh? Margherita Pepe. Ma c'era un commento di Elia anche alla fine, se non sbaglio. Alla fine del brano, no? Sì. Non l'ho sentito. Dobbiamo da domani su www.coxospaziale.blogspot.com dobbiamo andare a riascoltare per sentire che cosa diceva Elia alla fine della canzone. Mi sa che fosse non male, eh? O l'hai detto tu? No, forse l'ha detto lui. L'hai detto tu o l'ha detto lui? Non lo so, io o l'ha detto lui, non lo so, Elia l'hai detto tu. E io sono confusa anche perché qui la puntata è stracarica, piena di contributi, intersecante, rizomatica come ci piace a noi, ma neanche la prima dopo una lunga vacanza. Appunto, dove sei stata in vacanza, Fedra? Lasciamo perdere. No, adesso ho fatto un sacco di belle robine, però venivo ancora al Coxo. Io ho visto una cosa meravigliosa che sarebbe piaciuta moltissimo anche a Elia, ed è la Cueva del Castillo. Ovvero una grotta con disegni di 4000 anni fa, con anche le impronte di un sacco di mani, e lui spessissimo si faceva proprio l'impronta della mano oppure disegnava attorno alla mano, un po' come i bambini, perché alle volte lo diceva lui stesso che si sentiva un po' bambino. ed effettivamente era... Ma era un bambinone, un bel bambinone. Era un po' bambinone, esatto. Ogni tanto lo caffiavo per questo suo essere bambinone, ma alle volte invece era veramente meraviglioso. Ma sai, io quasi l'ho scoperto dopo che era pittore, nel senso che lo incrociavo a feste in gioventù, bello, e ci si divertiva, ci si faceva... Beh, io e lui grandi arrampicatori di palazzi, andavamo sui tetti per le impalcature, ecco, a guardare la città dall'alto, insomma avevo trovato un sodale. E poi una bella lo incontro di giorno, cosa abbastanza strana, che stava andando nel suo studio, e allora siccome c'avevo un po' di tempo libero sono andata nello studio e ho scoperto questa meraviglia. Elia Pittore. Nello e saluto studio. Anche Fabio, che era in studio con lui, ho conosciuto anche lui in quell'occasione. Grande. Io invece saluto Giulia e saluto Rossella, che ci ascolta da Parigi. Ah, lo sai? Lo so. E la scappiamo dopo? Come? La scappiamo dopo? Non la scappiamo perché sta facendo sta facendo altro, però la skyperemo prima o poi. Va bene, io adesso ho un'altra domanda per te. Dimmi tutto. Dopo le super mega galattiche prime pubblicità della quarta stagione di Coxo Spaziale, sì, quelle del 7:30, che brano ascoltiamo? Nabat può andare? No, assolutamente, no. Quello è il brano finale. Team Sparks? Sì, non lo so. O i Gomez? I Gomez li presenta lui? Li presenta Elia, sì. Se vuoi possiamo mettere i Gomez. Allora va bene, quindi... Forse anche Team Sparks lo presenta, non mi ricordo più niente, mi dispiace, ho preparato questi file ieri l'altro e come tu ben sai io non mi ricordo mai niente. Beh, non a caso allora il nostro gingolino ci sta, perché è certo, molto appropriato. Grande. E allora a tra pochissimo per continuare questo viaggio. Ciao. Vaga scaletta. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Perché scodenzoli? Bene, parti bello, oggi mi porto. Stai ascoltando Coxo Spaziale. Arte contemporanea. spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale. Ti piacciono questi due bellissimi momenti dopo la pubblicità delle 7:30? Mi piacciono moltissimo. Perché a me i Gomez ricordano quell'album bellissimo, che è l'unico che ho loro, che mi sono ascoltata un sacco, che riprenderò ad ascoltare. Però live non l'ho mai sentito. Invece il nostro Gingolino sappiamo benissimo cosa ricorda a te. Appunto. I lontani momenti in cui il palinsesto ci voleva vicino alle mitiche scene. Infatti salutiamo Giulia, che se n'è andata lontano, Elena che invece chissà dove sarà, e Barbara che prima o poi rivedremo sugli schermi di Radio. E avremo Stratico. Anche ospite qui al Coxo, si spera, che insomma. Certo, assolutamente. Noi da loro siamo andati. Fine, sentitevi obbligate a venire ospiti quanto prima. Obbligate. Obbligate. E inoltre chi salutiamo anche? Salutiamo il secondo super mega galattico ospite telefonico della 150esima puntata di Coxo Spaziale, che è il gigantesco Linf. Ciao caro. Ciao Stefano. Come stai? Tutto bene? Non ci vediamo da una vita. Purtroppo sì, siamo sempre così distanti. Sto molto bene, grazie. Già non avevo descritto Monica, che è artista, filmmaker, eccetera, nel gruppo di Micropunta, eccetera. Stavolta invece mi ricordo di descrivere descrivere Linf, che Linf è l'amico di Elia delle medie. No, scherzo. Grandissimo musicista, appena dopo, grandissimo musicista, Alessandro Linfitto, detto Linf, che sta facendo un sacco di robe dovunque. Adesso poi magari, se una di queste volte ti chiamiamo appositamente come ospite super famoso, ma questa volta invece ti vogliamo qui come miglior amico di Elia, storico. Sì, e lì è stato un grande amico per me, importantissimo. Ci siamo conosciuti che avevamo 15-16 anni, abbiamo questo anno di differenza e abbiamo passato tutto quello che si passa a quell'età, dai bei momenti ai momenti più folli, più divertenti. La cosa che mi ricordo molto è i pomeriggi in camera sua ad ascoltare dischi, e questa cosa mi ha segnato tantissimo, perché mi ha fatto scoprire la musica. Non so nemmeno come facesse a trovare tutte queste cose, ma sta di fatto che mi proponeva John Coltrane, Lounge Lizard. Esatto, a 15 anni, capito? Ma infatti io questa cosa di Elia, devo dire, perché naturalmente essendomi preso cura io del libro che appunto sta per uscire, che presenteremo domani a Adri, La domanda che mi sono posta è proprio quella: dove trovava tutta questa? Cioè, lui praticamente aveva assimilato, tra virgolette, Robert Rauschenberg a 16 anni, capito? Cioè, lui aveva capito perfettamente tutta la poetica di Rauschenberg e l'aveva fatta sua. E io mi chiedo: ma a 15 anni chi è che ti ha fatto vedere senza Robert internet? Ad Arre, esatto, negli anni 80, capito? Infatti perché era pazzesco in quegli anni. Immaginare come fosse il mondo in quegli anni oggi sembra veramente impossibile. Infatti, non avere internet, eppure appunto capire capire appieno il lavoro di Rauschenberg, oppure ascoltare appunto John Coltrane. Dai, viene fuori che c'aveva uno zio che lavorava per il MoMA di New York. O nel KGB che traeva informazioni. No, Rai Stereonote ci ha aiutato molto in questo. Ah, è vero, Rai Stereo, no, è vero, c'era sì. Double Fantasy, c'erano ste robe qua, capito? Da mezzanotte in poi. È stato veramente bello, è fondamentale anche per me. Credo proprio che il mio percorso da compositore lo devo proprio a lui, che mi abbia stimolato a cercare, a creare. Infatti mi sono iscritto al conservatorio molto tardi, molto adulto, però penso proprio che sia stato un suo regalo. Ma dimmi una cosa, ma per caso in quel che eravate in cameretta e che eravate adolescenti, sì, ma qualche suonatina, cantatina insieme l'avete anche fatta? No, nessuno dei due. Poi lì a cantare era veramente... ha provato... Però c'è stato un attimo che faceva parte di un gruppo punk o qualcosa del genere. Io ho visto solo le foto, non ho sentito le registrazioni. E nella foto faceva una sua gran bella porca figura. Certo, no, anche perché c'aveva poi sti stivaloni, cioè lui era un po' dark come vestito, eccetera, però poi dopo c'aveva ste camicie bianche. Aveva Physique du Rôle, come diceva lui. Esatto, cioè, comunque c'aveva sti capelli biondi lunghissimi quando aveva 16-17 anni, che era veramente un gran gnocco. Allora io continuo con Linz sull'onda delle mie curiosità, certo. Come ho chiesto a Monica, un aneddoto per raccontarci la tua parte di Elia. Monica ci ha raccontato che al primo giorno d'Accademia è arrivato in aula con sotto braccio il portellone di un frigorifero pieno di cosette, come se fosse il suo astuccio. Qualcosa del genere che puoi condividere con noi? Beh, guarda, sono veramente tantissime le cose che mi sono venute in mente, ma nessuna in particolare che sia riuscita a trattenermi. Viene in mente dalla sua tesi di laurea, come l'ha fatta, che l'ha fatta in una settimana e andava in giro con questa pupazzetto di Titti, che poi è diventato l'interno della sua tesi, perché era una tesi sugli oggetti, sull'oggetto all'interno dell'arte. Aveva una maniglia, era un quadernone con una maniglia che lui ruotava e dal quale spuntava proprio il pupazzetto Titti, che mi ricordo, fra l'altro, avevamo trovato lungo le rive del Po. Ma che meraviglia! No, questo ci sta alla grande, ti ringrazio, mi sento soddisfatta per la mia sete aneddotica. Mi scrive Fuga per Arte, il nostro amico Giffo, che non si sente alla diretta su internet, e di a Fedra che me la sposo, mi ha scritto. Ma ci ha scritto sul Cox o sul tuo profilo? No, mi ha scritto sul mio Facebook personale. Allora non si accetta, o comincia a scrivere sul Cox oppure non si accettano proposte di matrimonio. Molto bene. Scusa Linz per la piccola è che siamo tornati in diretta dopo tanto tempo, poi dopo un mese dalla pausa estiva e dopo ben un anno in diretta finalmente di nuovo insieme con Stefano, perché si è preso una pausa di un anno qui. Mi sono preso un anno sabbatico, quindi i nostri ascoltatori. Perché avevo un libro da preparare, sai com'è? Con la maniglia anche il tuo? No, non gliel'ho messa. Il pomello, infatti. Linz, qualcosa. Quando passi per Bologna le prossime volte, passaci a trovare, che facciamo un coxo insieme. No, in realtà dovremmo fare veramente una puntata su Linz e sulla sua musica, perché veramente. E tanto è nel nostro target, perché noi certo. ci occupiamo di bolognesi oppure cioè Emilia Romagna. No, stiamo dentro la regione, quello che o che vengono a farlo qui o che vanno a farlo altrove, quindi esatto. Insomma. Ma sì, passi di qua, vai di là. Facciamo un po' quel coxo che ci pare, per cui vieni quando vuoi, insomma. Bene. Grazie. Allora, per salutare Linz e seguire e entrare nella prossima slot della puntata, che cosa ti metto? Team Spark o Nabat? Sempre Team Spark. Vado con Nabat, è l'ultima canzone da mettere. Va bene. Allora, e qui c'è forse la presentazione di Elia? Forse c'è Elia che presenta il brano, però non mi ricordo più. Mi dispiace. Va bene, tu lo conosci Team Spark, Linz? Certo, sì. Ok, allora diciamo che... Lui sa tutto. Va bene, vado. Il disco si chiama Tanz ed è l'esordio di questo trio per la Zadig Records di John Zorn. Questo è il brano che apre il disco. Vi bischi di Givesen, Prohibition, che stavate facendo durante il proibizionismo, ed è il primo pezzo, via. Allora lasciamo in sottofondo la musica di Tim Spark. Ho detto bene, Spark? Benissimo. E continuiamo la nostra maratona di Eliana. Eliana si può dire. Non no? avrei saputo dirlo meglio. Esatto, no, anch'io non avrei saputo dire peggio. No, stavo pensando che magari qualcuno si chiede, ma di che cosa c'è, cioè, di che cosa stiamo parlando? Ricapitoliamo allora. Un attimo. Fatti vedere. Stiamo parlando di Elia, detto anche il biondo, pittore che conoscete tutti perché l'avete incontrato in giro per Via del Pratello, oppure no? Era anche colui che montava tutte le mostre al Sesto Senso, quando ancora il Sesto Senso esisteva in Via Petroni. Stiamo parlando dal 1900, no, dal 2000 al 2005 più o meno. E basta. Ah no, e niente, adesso siccome poverino Elia è morto nel 2005, abbiamo io e una sorta di super comitato di Adrian. Sì, perché è una cosa fra l'altro complessa, avete fatto un crowdfunding. Abbiamo fatto, no, ci abbiamo lavorato da un anno praticamente, abbiamo fatto un crowdfunding, ne approfitto per ringraziare tutti i cittadini di Adria che hanno contribuito, perché effettivamente abbiamo avuto 140 contributi, la cui buona parte viene appunto da Adria con tutti i suoi amici eccetera, e abbiamo ricevuto sufficienti fondi per appunto realizzare la pubblicazione che si chiama Elia Artista, che domani verrà finalmente presentata al pubblico, la prima volta ad Adria e dopodomani a Bologna. Quindi la presentiamo domani ad Adria al Pozzo dei Desideri, lì in centro, lo sanno tutti dov'è, e invece dopodomani sabato la presentiamo a Villa Ghigi, per cui bisogna scarpinare un po' su per la collina. Ah, io ci sarò senz'altro ad Adria, non so, però a Villa e dalle Ghigi 19 ci sarà appunto questa presentazione con vino Ricchi Premi e Cotillon. Mi hai citato. Certo, e Fedra naturalmente, per cui Fuga per Altri gli toccherà di venire. Secondo te ci sarà anche Karin? Chissà. La Karin Andersen, che è la terza super mega galattica ospite della 150esima puntata di Coxo Spaziale, prima della quarta edizione. Chi lo sa, Karin, vieni a Villa Ghigi sabato. Ciao, eccomi qua. Aspetta, eccoti che alziamo qua. Subito ti sentiamo, i volumi. Ti sentiamo poco, ma ti sentiamo. Eccoci. Tu ci senti bene? Sì, vi sento forte e chiaro. No, come potrei mancare, insomma. Quindi sì, ci vediamo anche con Karin a Villa Ghigi. Sì. Anche tu, Karin, hai fatto l'accademia con Elia, per cui sì, anche tu hai un sacco di storie da raccontarci su di lui. In realtà, cioè, Elia è stato proprio una delle prime persone che ho conosciuto, diciamo, nella mia parte di accademia, in cui avevo preso un po' più di consapevolezza della cosa, no? Quando ho cambiato professore e sono capitata in questa aula dove c'erano tante persone interessanti, tra cui Elia. E quindi si parla di tantissimi anni fa. Per cui eri da Agostino anche tu? Sì. Ah, sì, ma sì, dai, sì. Non lo sapevo. Fra l'altro anche D'Agostino sarebbe un artista a cui dedicare una puntata di Coxo Spaziale, anche lui, un artista importantissimo. E noi dedicheremo e telefoneremo di nuovo a Karin. Esattamente. Ecco. Ma allora, io che ho conosciuto Elia per altre vie, artistiche sì, ma non pittoriche, non accademiche, stavo chiedendo un pochino a tutti un aneddoto. E allora, sì, detto questo, poi di accademico in accademia c'era veramente poco in quegli erano anni. Erano begli anni, quelli erano anni sani dell'accademia. Adesso così spontaneamente mi vengono in mente due aneddoti. Uno non è proprio un aneddoto, però è un fatto abbastanza curioso, perché io sono sono tedesca, bavarese, nata in Baviera, in una cittadina che nessuno conosce, che si chiama Burghausen, un posto piccolo ma carino, però ripeto, qua nessuno sa che cos'è. Elia invece sì, perché Elia era capitato, indipendentemente da me o da qualsiasi cosa che mi possa riguardare, era capitato a Burghausen a lavorare in una delle pochissime gelaterie che aveva aperto a Burghausen, ancora credo negli anni 80. Ma non ci credo, quindi sì, tu gli hai detto, quando... tu gli hai detto, ma da dove vieni? Sono bavarese, ma il paese non l'ho mai sentito, dai dimmelo, ci ho lavorato. Esatto. Grandioso. Sì, sì, sì. Per, tra l'altro, in una gelateria che frequentavo anch'io, perché non sono dalle mie parti, non c'erano tante gelaterie, è un posto molto molto molto provinciale, e quindi il fatto che Elia sapesse che cosa fosse Burghausen e avesse proprio battuto i luoghi della mia adolescenza mi ha sempre fatto effetto. No, ti prego, dimmi, quanto tempo ti ricordi, quanto tempo c'era rimasto? E se tu magari ti sei ricordata poi a posteriori di averlo già incontrato prima in gelateria? Ah, può essere, insomma, non siamo mai riusciti a capirlo. Credo che lui sia stato un'estate intera. Wow. Meraviglia. Abbiamo fatto proprio come si dice, lo stagionale. Comunque, mancava, il lavoretto. No, comunque in Veneto questa cosa di andare a fare il gelataio in Germania c'è stato un sacco. C'erano anche molti miei compagni, sì, del liceo, che avevano uno addirittura ha mollato gli studi per andare lì, e poi tornando c'è cioè stato un anno, e coi soldi che ha guadagnato ha comprato gli strumenti per fare il suo primo album, registrazione. Wow. Ha fatto anche successo per un po', adesso non mi ricordo il nome del progetto. Comunque siete, no, dai, penso comunque andare a lavorare in gelateria a Burghausen può essere anche formativo, perché è comunque un posto un posto abbastanza, come dire, non mi viene la parola, autentico e verace. Ah, certo. No? È molto ruspante. Un po' come Adria quando ci vado. Cioè prima del... paralleli. Prima del secondo aneddoto ti chiedo, ma qual era il tuo gusto preferito in quella gelateria? Adesso non esiste più, anzi il complesso dove c'è questa gelateria adesso è diventato un non luogo che da anni deve essere raso al suolo, ma per questioni di amministrazione non lo fanno, insomma un po' così la questione. Però allora mi sembra che amassi molto stracciatella. Ok, mi piacerebbe che la prossima volta che passi ci mandassi per il coxo una foto di questo non luogo post gelateria. Lo così farò. Grazie. Assolutamente. E andiamo col secondo aneddoto? Sì, il secondo aneddoto, cioè fermo restando, adesso non è un aneddoto artistico, però l'avrete già detto, insomma, Elia era un bravissimo artista, cioè molto, come dire, dove in lui non c'era nessuna distinzione tra arte e vita, mi pare, cioè era proprio personaggio completo. A tutto tondo, certo. Esatto. Anzi, lui non sacrificava nulla della sua arte, per cui spesso appunto non trovava compromessi di nessun tipo. Giustamente, poi come un vero artista deve essere. Sì, sì, sì, infatti. E il secondo aneddoto è questo, che penso, non so, sarà stato il 2004, 2003, 2004, una cosa del genere. Una sera in via del Pratello, che era abbastanza tardi e stavo tornando da sola in motorino per andare verso casa. Era già abbastanza deserta via del Pratello, e a un certo punto vedo una sagoma di qualcuno che è sdraiato a terra in via del Pratello, più o meno all'inizio, proprio, ma non sdraiato normale, cioè sdraiato con tutte le, cioè con gambe e braccia spalancate, non so come dire. A quattro di spade. L'uomo vitruviano. Sì, sì, esatto, bravo. Esatto. Perfetto. A guardare il cielo così, e questo era Elia. Sì. Poi mi sono fermata e insomma alla fine ovviamente eravamo entrambi reduci da serate di vario genere, insomma, al Pratello, e mi ricordo che poi abbiamo fatto un pezzo di motorino insieme, perché forse l'ho portato a dove aveva la casa, non mi ricordo bene, però mi ricordo questo ritrovamento e viaggio in motorino molto delirante e poetico. Sì, no, io anch'io ho una storia simile, perché una volta mi sono sposato, ben 14 anni fa, e naturalmente avevo invitato Elia al matrimonio, e che doveva venire con alcuni amici del TPO, e alla cerimonia in comune in Abruzzo, in un posto lontanissimo da tutto, eccetera. A un certo punto vedo la macchina di Domenico parcheggiare, dico: ah, che bello, è arrivato Domenico, chissà se c'è Elia. E Elia non si fa vedere. Naturalmente lui era completamente reduce dalla sera prima e stava dormendo in macchina, per cui ha saltato completamente la cerimonia, non che fosse chissà cosa. E dopodiché invece rivedo la stessa scena dove eravamo a fare il pranzo eccetera, e vedo uno scarpone uscire dalla macchina dopodiché c'è lui che si rotola e appunto ho avuto il privilegio di averlo al mio matrimonio, almeno alla festa del mio matrimonio, e naturalmente grande. Se lo ricordano tutti, oltre sì, al matrimonio sì. Che appunto spesso qualcuno l'ha paragonato al mio grasso matrimonio greco, ma abruzzese. Sì, anch'io sono rimasto un po' così, ma anzi ne approfitto per salutare mia moglie che probabilmente mi sta ascoltando imbarazzata. Salutiamo tutti. Esatto. Ma sai cosa sta? Sappiamo cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo, Fedra? Che siamo agli sgoccioli della prima puntata della quarta serie di Coxo Spaziale, 150esima puntata dagli inizi. Fantastico. Con la nostra super mega galattica terza ospite della puntata, che è Karin Andersen. Artista. Artista con tempo. Cosa stai combinando, fra l'altro? Approfittiamo. Ah, in realtà sto traslocando. Ah. Cioè. Spero che non te ne stai andando, tu non te ne stia andando da Bologna. Per è una cosa un po' metafisica, perché sto andando via, ma dopo rientrerò nella stessa casa. Ah, grande. Perché abbiamo bisogno di trasformare la casa. Un po' come manca spazio. Un po' come Howl, il castello errante, che a una certa, quando sono in troppi, li fa stare tutti sul tavolo e trasforma la casa per poi farli rientrare. Sì, no, un po' anche come il pianeta delle scimmie, no? Che adesso me ne vado e poi dopo a un certo punto arriverò in un luogo che mi sembrerà pazzesco, nuovo, insomma, però in realtà sarà esattamente quello da dove sono partita. Meraviglia. Almeno spero che l'effetto sarà questo. Beh, in ogni caso, per sapere di più di questo momento transitorio e mega galattico, dai, un po' galattico, sì, di Karin, possiamo cogliere l'occasione di sabato per trovarci tutti quanti a Villa Ghigia alla presentazione del libro di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo dedicato questa puntata di Coxo Spaziale, e così glielo chiediamo di persona. Perfetto, assolutamente. Non so se sarà così interessante, sicuramente il libro è molto meglio. No, beh, certo, libro, atmosfera, festa, anche perché certo. A quanto ho capito... Anche perché poi il bello di Elia appunto è che conosceva svariegate persone di vari generi e poi dopo alla fine ci siamo conosciuti tutti, proprio per via della sua morte, per cui anch'io adesso, io sono... contentissimo di aver conosciuto tutti gli amici di Ade, e tutte le volte che vado a Ade in un certo senso mi sento in una seconda casa. Voglio anch'io di andarli a conoscere. Hai quindi visto? Facciamo una puntata sugli amici di Elia di Adria. Esatto. Infatti. Con Karin ospite telefonica. Assolutamente. Allora, purtroppo il palinsesto finisce ci richiama, sì. È all'ordine, quindi no, noi andiamo continua, con esatto. Sì, ma ci richiama all'ordine. Il servizio del Coxo settimanale sta per finire e lo finiamo con un brano dei Nabat, dico bene? Esatto, che dedico al nostro amico Chicco, che anche lui ha fatto l'accademia con noi, che è il grande chitarrista dei Ghetto 84. Dobbiamo chiamare anche lui a suonare dal vivo qua. Ah, ok, lo chiamiamo dopo nella puntata. Esatto. Karin, tu lo conoscevi, Chicco? Eh beh, certo. Non lo so, oddio, forse sì, ma ho un buco io adesso, perché Chicco è una cosa, nome di quelli che... Chicco Serrapica, ma sì che lo conosci. Ma Serrapica lo conosco anch'io. Certo che lo conosci anche tu, una buona da tamburini, lo conoscono tutti, come Elia, dai. Molto bene, Karin, grazie, bene, è stato un piacere sentirti e ci vediamo piacere sabato. Piacere mio, va bene. Okay. Un bacio a tutti. Grazie Karin, anche ciao. Da parte mia. Ciao. La 150esima puntata di Coxo Spaziale si chiude con... aiuto. Chi lo sa dove? Con che cosa si chiude? Con Nabat. Con i meravigliosi Nabat. No, anche perché devo dire una cosa velocissima, che io e Elia ci scazzavamo sempre. Proprio, non sai, proprio, perché chissà proprio come sul, non avevo dubbi. Proprio sulle piccole cose, no? Perché il tacchino, ovvero, tacchino, esatto. Tacchino. No, è il contrario, capito? Anzi... E appunto ho voluto anche stavolta rovinare la puntata di Elia per Elia, mettendo un pezzo che con Elia non c'entra nulla. Ah, ecco. Vedi? hai fatto, hai detto ciò che volevi di te. E adesso può anche finire così. In fondo sai cosa rimane di noi? Posso vedere di più. Corse per le strade, lotte per le case, amicizia vera. In fondo sai cosa rimane di noi. Rimane di noi solo la notte che c'è. Solo la notte. Coxo!